Mai, insomma, una vicenda drammatica personale. Morgan, drogato e pericoloso, toglieteli la patria potestà, lo chiede la sua ex compagna Asia Argento. Le grandi banche, le due principali, ci sono Intesa e Unicredit, ci sono molte banche del credito cooperativo, molte casse di risparmio, molte popolari. Mancano all'appello ancora due colossi, BNL e Montepaschi, ma sono sicura che arriveranno presto anche loro. Senta, c'è un aspetto particolare di questo finanziamento, c'è un'attenzione particolare nei confronti dei bambini affetti da malattie rare, per i quali il prestito sarà assistito anche da un contributo in conto interessi. Cosa vuol dire? Esattamente, verrà consentito al sono gli altri 10 milioni di cui si parlava, c'è una sezione speciale con una monta di 10 milioni di euro finalizzata a consentire il pagamento degli interessi su questi finanziamenti. In sostanza, il contributo di conto interessi va a coprire quasi tutto la quota interessi del finanziamento stesso, tranne una quota piccola che è lo 0,5%. Quindi è come se il cliente pagasse in questo caso soltanto lo 0,5% del tasso di interesse, quindi è veramente, veramente una condizione agevolativa. Abbiamo dato indicazioni sommarie delle banche che hanno diritto al protocollo. Cosa deve fare una famiglia interessata a questo prestito, dottor Peppetti? Perché io immagino che la cosa più naturale da fare è di andare allo sportello bancario presso il quale siamo tradizionalmente clienti e fare subito la prima richiesta lì. Se questa banca non ce l'ha? Esattamente, guardi, puoi sicuramente scaricare il modulo dai nostri siti o dal sito del Dipartimento, quindi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, appunto al sito www.fondonovinati.it. Lì vi sono richieste degli allegati, in particolare ovviamente il certificato di nascita del nuovo nato. E bisogna ricordare che questa domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla fine dell'anno di nascita del figlio. Quindi per i nati nel 2009 c'è tempo fino a giugno del 2010 per poter usufruire dell'agevolazione. Questo riguarda ovviamente anche anche per quanto riguarda la contribuzione in conto interesse. Insomma, ricordiamo anche l'aspetto teoricamente della retroattività, perché siamo già appunto ad aprile 2010, esatto. Per cui questo vale anche per tutti i bambini che sono nati l'anno scorso, e per coloro che sono nati l'anno scorso c'è tempo per fare la richiesta fino a giugno di quest'anno, per cui questa è un'indicazione molto importante. Esattamente. Benissimo. E quindi se una volta espletata tutta la procedura formale di compilazione del modulo... Viene effettuata la valutazione da parte della banca sull'affidabilità e quindi viene trasferita la pratica da parte della banca al sistema online al gestore del fondo, che ricordiamo è la Consap, la quale analizzerà la capienza del fondo e poi ovviamente darà conferma del finanziamento, e quindi verrà erogato il finanziamento, questo in tempi brevissimi. Occorre ricordare che ad oggi, possiamo dare qualche numero, ci sono stati circa 1.500 richieste di finanziamento per un ammontare di 7 milioni e mezzo di euro, di cui erogati ad oggi sono 2 milioni e 2, quindi andiamo, per i primi 3 mesi di operatività andiamo veramente molto bene. Dottor Peppetti, ritorno all'esempio che ho fatto qualche minuto fa. Se vado alla mia banca e questa banca non ha aderito o non ha ancora aderito al protocollo, però io ho bisogno abbastanza rapidamente di questo denaro, devo rivolgermi ad un altro sportello. Questo secondo sportello mi richiederà l'apertura di un conto corrente per sottoscrivere prestito? Non è obbligatoria l'apertura del conto corrente, assolutamente. Benissimo. Un altro aspetto, ottengo il prestito e fra qualche mese mi trovo in difficoltà nella restituzione. Che cosa succede? In questo caso la banca richiederà ovviamente entro 6 mesi di impagato la richiesta di finanziamento, dopodiché chiederà al fondo di poter escutere la propria parte di garanzia, di copertura, perché ricordiamo che il fondo di garanzia copre il finanziamento per un ammontare pari al 50%, può arrivare al 75% dell'eventuale insolvenza, con un reddito molto molto basso. Per cui adesso questo non è ovviamente un invito a non pagare, ma restituiamolo, perché è sempre anche meglio essere... Anche perché poi comunque il cliente rimane debitore per la parte del 50% della banca, e per l'altra parte del 50% nei confronti dello Stato. E poi sono problemi che ci portiamo dietro per tutta la vita, però noi questa cosa l'abbiamo fatta sapere, sperando naturalmente che nessuno abbia bisogno di doverla utilizzare. Dottor Peppetti, abbiamo detto tutto, gli diamo magari altre due indicazioni per chi volesse informazioni sul sito dell'ABI e il sito www.fondinuovinati.it. Fondo Novinati. sia sul sito dell'ABI www.abi.it, c'è uno slash dedicato al piano famiglie, perché ricordiamo che questa iniziativa, come l'iniziativa della sospensione, rientra nell'ambito dell'iniziativa ABI piano famiglie, cioè quella serie di iniziative a livello locale, a livello nazionale, volte al sostegno delle famiglie. E ovviamente sul sito www.fondonuovinati.it del Dipartimento. Benissimo, grazie molte, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buongiorno anche a voi. Ci faccio ancora sapere il monitoraggio come prosegue. Alessandro. Eccoci qua. Hai parlato tanto di Grecia, rassegna stampa, io oggi ci ritorno. Vediamo un po' cosa sta succedendo sui mercati in questi giorni. Tutti in Grecia. Alle noi 12 Salvadanaio. Certo. Calciopoli, bisogna riaprirla? Questo vi chiediamo, radio24.it per votare, oppure 800 24 00 24, se volete siamo qua. Alle 8.31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Il presidente napolitano ha firmato la legge sul legittimo impedimento, che fornisce uno scudo processuale a premier e ministri. Subito un referendum abrogativo, annuncia Antonio Di Pietro. Intanto, sul fronte delle riforme, il ministro Calderoli ieri al Quirinale ha consegnato una bozza al capo dello Stato. Ma da più parti, nella coalizione di maggioranza, si fa sapere, è in una iniziativa autonoma. In Kirghizistan, Repubblica Asiatica, ancora caos e violenza. Ieri circa 70 morti, la fuga del presidente Bakiev, che si è rifugiato nella città di Osh, in un palazzo ora circondato da manifestanti dell'opposizione. Sciolto il Parlamento, è sorto un esecutivo di transizione. Per il calcio sarà Bayern Monaco-Lione, l'altra semifinale di Champions League, con l'Inter che sfiderà invece il Barcellona di Messi nell'altra semifinale. Ieri i tedeschi del Bayern hanno eliminato il Manchester United pur perdendo 3-2 in Inghilterra, mentre il Lione ha superato il Bordeaux. E allora anche noi parliamo oggi di calcio, nel nostro sondaggio, di un calcio diverso. Calciopoli, calciopoli. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Io sono bianco o nero, ci accoglie la voce di Maradona. Ci scrivono ancora, ma chi è quello spagnolo che parla? È Maradona, Diego Armando Maradona, nella nostra sigla. Allora, calciopoli, nel 2006, sapete, il sistema Moggi, così fu definito. La Juventus, soprattutto colpita, tolti i due scudetti, retrocessa in Serie B. Non solo lei colpita, anche in misura minore il Milan, la Fiorentina, la Lazio, ma soprattutto la Juventus. Ora la Juventus, ora i legali di Moggi, non ci stanno. Stanno venendo fuori una serie di intercettazioni e ne vedremo delle belle ancora. Qualche audio già va su internet a dire: guardate che non eravamo solo noi a parlare con i dirigenti arbitrali, con gli arbitri, a intrattenere rapporti che per la procura sono stati giudicati, insomma, rapporti non molto simpatici. Guardate per esempio Moratti, che ha sempre detto che non parlava con nessuno. Sentiamo Moratti col designatore di allora, Bergamo. Pronto? Presidente Moratti? Chi parla? Buonasera, sono Bergamo. Oh, come sta? Mamma mia, presidente, due chili meno. Sa che volevo chiamarla ieri sera, perché poi sono andato dal ragazzo. Era un intendimento comune, allora, poi ho detto ma non voglio disturbare. Il ragazzo dovrebbe essere l'arbitro, era una Inter-Sampdoria vinta all'ultimo minuto. Moratti e Bergamo parlano, per carità, parlano di... si è comportato benissimo l'arbitro. Bravo, nel senso che non avrebbe potuto finire in un pestaggio di denaro, invece è sempre stata correttissima, perché è una partita nervosa, importante. Puoi immaginare. Allora, tante intercettazioni e Moggi dice: guardate, poi c'era Facchetti oggi è uscito sui giornali, chiamò De Santis, arbitro che è stato, insomma, è finito in disgrazia dopo quella vicenda. Di arbitri ci interesseremo in tanti, avrebbe detto Facchetti. Non c'è l'audio ancora su internet, ma girerà anche questo. Io voglio salutare Oliviero Bea, buongiorno. Buongiorno. Giornalista, scrittore, ne scrive sul Fatto adesso, ne parla spesso in Rai, ne scrive da anni, per la verità, del marcio che c'è nel calcio. Voglio salutare poi due eccellenti tifosi, due tifosi VIP. Massimo Giletti, buongiorno, Juventino Doc. Buongiorno, buongiorno. E voglio salutare anche Don Antonio Mazzi, interista, ciao, doc. Buongiorno. Allora, Oliviero Bea, intanto, la domanda che si fanno tutti è: queste 100.000 rotte intercettazioni che ora Moggi e i suoi legali stanno ascoltando disperatamente, perché martedì prossimo c'è un'udienza, perché non finirono nel processo di Calciopoli del 2006? Questo bisognerebbe chiederlo intanto a chi ha condotto le indagini, e cioè all'epoca il maggiore dei carabinieri Attilio Auricchio, che in questo momento, in questo periodo, viene interrogato prima dall'accusa e poi dalla difesa a Napoli nel processo di cui stiamo parlando. Poi bisognerebbe chiederlo a uno dei due pubblici ministeri, io ricordo che all'inizio erano due, Beatrice Narducci, e poi invece uno dei due Beatrice è stato trasferito a Roma e adesso c'è Capuano. Ebbene, bisognerebbe chiedere a Narducci, che è un po', diciamo, il filo conduttore di tutto il processo, perché è rimasto come PM in aula, come mai ha detto un anno e mezzo fa, escludo tassativamente che ci siano altre telefonate, altre intercettazioni. Quindi credo che loro due sarebbero più, come dire, più competenti di me. Certo, poi insieme a questo c'è da domandarsi come mai, alla luce di quello che sta venendo fuori, questo faldone sia stato archiviato dalla Procura di Torino, da cui era partita questa inchiesta, e poi sia stato ripreso da Napoli, meritoriamente naturalmente, nella ricerca della verità, e tenuto per mesi e mesi in un armadio della Federcalcio, perché come sapete la cosa era dell'autunno precedente ed è uscita nell'aprile-maggio, ma più maggio che aprile del 2006. Insomma, qualche domanda c'è. Noi la domanda che facciamo è questa: bisogna riaprire Calciopoli? Il 76% per ora su Radio24.it dice di sì, cioè il tema è questo. Poi la Juventus ora rivuole gli scudetti, almeno che vengano tolti a lì, che venga tolto all'Inter quello scudetto del 2006, quello definito dagli anti-interisti lo scudetto di cartone, dagli interisti lo scudetto degli onesti, insomma. Però Bea, molti dicono, insomma, ma da queste telefonate quello che si sente è un po' fuori. Uffa, cioè vabbè, sì, telefonava, come va, con un presidente che telefona al designatore arbitrale, è andata bene, è andata male, sì, no? Dunque, c'è poca memoria. Io devo ricordare che di queste cose, come del resto ha già detto lei, ma di queste cose mi occupo ormai da 30 anni, questo mi invecchia tremendamente, però lo devo dire per onestà, da 30 anni e forse più. Ho tirato fuori nell'80 il primo scandalo delle scommesse, nell'84 lo scandalo dei mondiali di calcio, l'82 del Camerun, dell'Italia, li vinse quei mondiali in Spagna, di cui poi nessuno volle parlare, nato con la solita censura di stampa che noi conosciamo bene in questo e in altri settori. E quindi voglio dire, da allora periodicamente mi sono occupato con un occhio diverso del calcio, quindi se io mi metto alla luce di quello che viene fuori a dire una cosa, non lo dico per difendere qualcuno, ma per cercare di sapere come sono andate le cose. Ancora più chiaramente, il sistema calcio è una faccia marcia di un paese marcio, e da questo punto di vista non ho molte speranze che venga fuori la verità. Verrà fuori una composizione della verità, perché se si dovesse davvero tirare, a partire dalla stampa che per tanti motivi non lo può fare, il filo di Calciopoli, verrebbe sgomitolato l'intero paese, perché non di calcio stiamo parlando, noi stiamo parlando dell'Italia, tutte le figure di cui parliamo. Moratti gioca un ruolo in un certo modo, Galliani e Berlusconi in un certo altro, la Fiat in un certo altro ancora, l'Unicredit e la Roma in un certo altro ancora, quindi stiamo sgomitolando il paese. Cioè calcio paese, ne dice. Beh, questo è sotto gli occhi di tutti, solo che non viene detto. Allora io vorrei sentire due tifosi doc, Massimo Giletti e Antonio Mazzi, non vogliamo rifare il derby d'Italia, insomma, ma Giletti, allora, volete che venga tolto all'Inter lo scudetto? Che cos'è, una rivalsa? No, ma a parte il fatto che purtroppo Oliviero Bea, come spesso accade, ha ragione, e anche per quello che dice, però paga dei prezzi molto alti personali, e questo ti dice poi alla luce dei fatti come siamo messi. Sono contento che ci sia Don Mazzi, perché credo che l'Inter debba andare un attimo in confessionale, chiedere scusa per tante cose, anche perché raccontare il falso non aiuta nessuno, perché prima o poi, come dice Oliviero, non la verità, ma tasselli di verità escono. Perché quando un presidente dice "io non parlavo mai con Bergamo e Pairetto", e poi si sente questa telefonata, non attenti, è vero che è Bergamo che chiama Pairetto, ma il tono che chiama, amichevole, che chiama il tono, il presidente, ma il presidente dice "l'avrei chiamata io". Sì. Ecco, è il tono che c'è, non è un tono di uno che non sente mai Bergamo al telefono, no? Oh, come mai mi chiama, non ci siamo mai sentiti? È un tono molto rilassato di persone che si sono già sentite. Del resto, Pairetto e Bergamo hanno sempre detto che parlavano con tutte le società. Quindi tutti facevano così, tutti facevano così. Non però solo la Juventus è stata a segnare lo scudetto tolto alla Juve, è stato un azzardo, ma faceva parte del prezzo complessivo che c'era da fare. Io ce l'ho con la Juventus, perché la Juventus non avrebbe mai dovuto fare quella che io ritengo un patteggiamento. Doveva andare in tribunale. E in tribunale, quindi non subire una gogna mediatica e un processo farsa di 2 mesi, perché quando tu non puoi difenderti con tutti gli strumenti, perché i processi sportivi, credo che su questo anche Oliviero debba convenire, non sono dei veri e propri processi, la difesa non può parlare praticamente, ecco, tu dovevi andare fino in fondo. Sì. E fino in fondo, se si andava, si portavano dentro tante altre persone. Insomma, c'era con l'Inter. Eliminare, insomma, a quel punto Moggi era molto sconveniente, andava eliminato, punto, e si pagava il prezzo. E noi, come squadra, paghiamo ancora oggi quello che è successo tanti anni fa. Allora, vediamo se Don Antonio Mazzi. Intanto, io ricordo che sulla Gazzetta l'allora presidente, l'ex segretario generale dell'UEFA, Aigner, che era uno dei 3 saggi chiamati dall'allora presidente della FIGC Rossi a dire che facciamo con questo scudetto, oggi dice è stato, secondo me, un errore morale dare lo scudetto del 2006 all'Inter. Però Don Mazzi, devono venire in confessionale da lei per parlare magari di cose un po' meno serie degli interisti. Che pensa da interista? Abbiamo fatto fatica a trovare un interista che oggi venisse in onda a dire. No, io intanto mi scuso perché sono in macchina e potrei entrare nel tunnel. Allora, se ingiustizia c'è e se c'è qualcosa di marcio, deve essere chiarito, va bene? Sì. Inter o non Inter che sia. Uno, secondo, tutti conoscono lo stile di Moratti, io lo conosco perché siamo amici da 30 anni, lui parla con tutti, è un personaggio che non ha problemi, anche al telefono è di una dolcezza, una timidezza, dico che faccio fatica a pensare che volesse violentare qualcuno, Moratti non riesce, non riesce a violentare neanche una formica, per cui mi viene un po' da ridere. Terzo, se dobbiamo lasciare lo scudetto, ce lo guadagneremo in altra maniera. Io credo che non dobbiamo avere regali da nessuno. Ma si dice gli scudetti ne avete vinti ultimamente, voglio dire. Ma ne abbiamo anche vinti, speriamo anche adesso, appunto, abbiamo una settimana di quelle che penso che Moratti ha ben altro da pensare. Va bene, per vabbè, io dico speriamo 5 di no. Partite. Come? Io dico speriamo di no, io sono del Milan, però insomma, quindi. Ah, vabbè. Beh, adesso non devi fare queste confessioni così. Comunque sì, sono disposto a confessare, ho sentito anche Moggi sti giorni, quindi sono disposto a confessare. Non so, se su questo Giletti. Bea compreso. Non sono convinto che l'Italia sia un paese marcio. Va bene, Giletti, non so. Forse dei vertici marci, ma non è un paese marcio. Vediamo se Fonte non erano gli ultra delle curve, ma la fonte era ben precisa, sono i PM e gli investigatori. Allora, che cosa hanno fatto questi PM, Palazzi e gli investigatori? Che carte non hanno tirato fuori e perché non le hanno tirato fuori? Non penso che non sapessero che esistessero. Va bene, ma quando cominciamo a dire che i PM sono marci, sai, cominciamo a dire una roba. No, brutta, ho fatto una domanda: come mai era stato rassicurato che non c'erano intercettazioni che riguardassero l'Inter? Cosa che non è vera. Guardate Mazzei che parla con Facchetti, non mi sembra che non esista. Allora, Mazzei oggi è sui giornali, dirigente, all'epoca, insomma, parlava con Facchetti, appunto Facchetti ha detto gli arbitri ci interesseremo in tanti, è un audio pescato dai legali di Moggi per capire. Allora io do il traffico e poi riparto. No, però ci siamo anche noi del Milan, perché dobbiamo dire, per esempio, sentite Meani, che allora era per il Milan quello che teneva i rapporti con gli arbitri, che parla con Collina oggi è il designatore arbitrale, allora era un arbitro, Collina l'arbitro più importante. Quando noi avevamo posto il famoso veto perché Galliani si è incazzato con Pisa Creta, l'unico che mi ha telefonato e mi ha detto Leonardo, ti garantisco io, guarda che Pisa Creta è un bravo guardiano, una bella persona, non fate quelle cose lì che non va bene, che di qui, che di là, che di su, che di giù, è stato lui. Sì, sì. Un altro, conoscendo il vostro mondo, diceva, si è messo contro, lascialo là che si smaglia. Lascialo là che ne fa di meno, no, è bravo. Chiamato il grande capito. È Meani che dice, Pisa Creta, Galliani si è incazzato con Pisa Creta, perché... Insomma, e parlava con Collina, oggi designatore arbitrale. Io sono o blanco o negro, gris, non voglio essere in mia vita. bianco o nero? Allora, bisogna riaprire Calciopoli. Prima di tornare da Olivero Bea, un attimo, due ascoltatori che ci hanno chiamato all'800 24 00 24. Dario, da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo dire innanzitutto che non bisogna fare di tutto un erba un fascio, non ci sono tutte le società intercettate, perché non ci, al momento io sono di Roma, da parte della famiglia Sensi non c'è nessuna intercettazione, quindi... Quindi lei è della Roma. Esatto, quindi non bisogna parlarne, anche se ho sentito già il signor Olivero Bea che diceva Unicredit e Roma, quello se è un altro filone d'inchiesta, non lo so io. No, dice, cioè, scoperchiare il mondo del calcio vuol dire andare a toccare cose che non sono solo calcistiche. Ma adesso si sta parlando di questa cosa qui, delle intercettazioni, andiamo con quelle. Va bene. Poi se ci sono altri problemi li vedremo. Vedremo, adesso Bea le risponde. Prima Giuseppe da Verona, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma volevo dire, ha ragione il signor Bea quando dice... abbiamo la memoria corta, non ricordiamo più bene alcune cose del passato, ed è proprio così, perché se adesso mettiamo in onda alcune intercettazioni bisognerebbe confrontarle con le intercettazioni che stessa Radio 24 mise in onda qualche anno fa. Io ricordo bene il contenuto delle telefonate dei dirigenti della Juventus e di Moggi, non c'è confronto con questa che abbiamo sentito poco fa di Moratti. Cioè, lei non dice... c'è assolutamente confronto, parliamo di un contenuto completamente diverso. Va bene, lei, là, cioè, lei dice non c'è... No, c'è... ma è interessante questo, non c'è confronto, perché Bea, rispondendo magari anche all'ascoltatore di Roma che le dice che c'entra Unicredit, magari se vuol precisare, ma anche la vicenda, insomma, dice la linea di Moggi è vedete, tutti colpevoli o nessun colpevole, e invece gli interisti dicono ma cioè, state mettendo sullo stesso piano il sistema Moggi con questo tipo di telefonata in cui insomma c'è una certa affabilità, ma insomma, ma vogliamo paragonare le cose? Allora andiamo per ordine, perché naturalmente di materia ce n'è parecchia. La prima considerazione: quando io ho detto per brevità radiofonica il paese marcio, faccia marcia il calcio di un paese marcio, suscitando le reazioni di Don Mazzi, volevo dire una cosa ancora più precisa. Questo è un paese che ha una classe dirigente inadeguata, moralmente inadeguata, professionalmente inadeguata, politicamente inadeguata, è un paese che non è del tutto marcio fortunatamente, ma che è in declino, proprio perché, come si dice in gergo, visto che siamo a proverbi, non facciamo di ogni erba un fascio e tutto il resto, il pesce puzza dalla testa. Precisato questo punto di partenza, lei ha già spiegato che il mio discorso su Unicredit riguarda la connessione fra il calcio e il resto e la difficoltà di venire a capo della verità nel mondo del calcio, perché è come la difficoltà di venire a capo, diciamo così, di venire a capo della situazione italiana nel suo complesso. Sì. Questa è la premessa. Sulla vicenda tutti colpevoli, nessun colpevole? No, quella è una banalità che io non prendo nemmeno in considerazione, che tutti colpevoli e tutti innocenti. Cerchiamo di capire come funzionava e come funziona oggi il sistema calcio. Ma scusate, ma vi dimenticate, il tifoso della Roma, se viene penalizzato perché la Roma prende 4 decisioni di seguito arbitrarie contro da parte degli arbitri, comincia a pensare che è tutto truccato. Quindi non prendiamoci per i fondelli, finché vince va tutto bene, se perde come per tutti allora è una tragedia. Il problema è che non funziona il sistema oggi con gli arbitri di oggi, con Collina designatore, con questa federazione, con il potere sportivo e il potere politico sportivo, come non funzionava ieri. Ed è in questo ambiente che si muoveva Moggi. Ora, che Moggi parli da capo mafioso e Moratti invece da granduca non cambia la sostanza delle cose, non la cambia dal punto di vista della giustizia sportiva, perché anche Moratti, come ha ricordato Giletti, da juventino, ma non c'è bisogno di essere juventini o essere Giletti o essere nessuno, è nella verità dei fatti. Queste telefonate sono da violazione dell'articolo 1 sulla realtà. Cioè non dovrebbe telefonare, un presidente non dovrebbe mai chiamare un dirigente. Naturalmente no, e lo facevano tutti. Allora il problema non è tutti innocenti, tutti colpevoli o tutti colpevoli e tutti innocenti, è si poteva o non si poteva fare. A termini di regolamento no, la giustizia sportiva tutte queste cose ha considerato no. Ma io vorrei chiedere a Massimo Giletti, il concetto, la giustizia sportiva chi la fa? Mentre la giustizia ordinaria è un altro paio di maniche, se ne può discutere in altri termini, e ancora non si è pronunciata, attenzione. La giustizia sportiva si è pronunciata, e come? Ma chi la fa? La dipendenza della giustizia sportiva, cioè del potere giudiziario, dal potere esecutivo, nel calcio non è come, almeno ancora sembra, nel paese, per cui i magistrati sono un conto, esecutivo un altro, legislativo un altro ancora. Sì, sì, sì. No, dipendono dalla Lega e dalla Federazione. E allora come volete che ragionino questi? I Massimo Giletti, gli juventini, quello che sta dicendo Bea in questa fase finale è determinante. No, ma è fondamentale, capire, no, non è chiaro, la giustizia è sportiva, è una riflessione che va approfondita per capire, perché quando uno dice che gli è stato dato lo scudetto da Guido Rossi, Guido Rossi non è signor Massimo Giletti o un signor nessuno, è una persona che stava in un certo sistema. Vabbè, e chi ha lavorato dietro a questo sistema? Chi è? Chi ho non capito, è? Ma allora, perché ha detto che non ci sono intercettazioni? Qualcuno va valutato. Però eh? Qualcuno ha anche detto, allora è stato dato da Guido Rossi che è interista. Vabbè, ma allora ma dobbiamo, no, ma dobbiamo sono pensare. Fesserie, non no, è quello. Vabbè, allora non mi interessa che Guido Rossi fosse interista, mi interessa che cos'è. Oggi che cos'è stato ieri Guido Rossi. Guido Rossi si è appoggiato peraltro a tre cosiddetti saggi. Comunque il giudice che ha emesso la sentenza di condanna della Juve, Cesare Ruperto, ha detto andate a leggermi la mia sentenza. La mia sentenza c'era scritto che non bisognava assegnare quello scudetto. Poi è stato deciso in maniera diversa. Come mai si è deciso? Comunque io ma che ve frega di uno scudetto da togliere all'Inter adesso, Giletti? No, cioè, io lo dico da milanista, mi farebbe uno scudetto da togliere all'Inter. Anzi, io dico che l'Inter sta facendo un campionato straordinario come la Roma, se lo meritano entrambi in modi diversi. Dico che è molto imbarazzante però l'altra Inter, è quella di queste telefonate, perché io torno a dire una cosa, ma come mai, ma perché Agnelli telefonava a Pairetto? Ma chi lo sa? Perché Moratti sente la necessità di dire che non ha mai avuto rapporti di questo tipo? L'ha detto da tutte le parti. E poi stranamente si vede che invece queste cose non erano... invece non era vero quello che sosteneva lui, perché abbiamo ascoltato, ne abbiamo ascoltata una adesso, ora mi diranno, bisogna vedere i contenuti, ha ragione chi ha telefonato prima, diceva da Verona, credo, ma insomma i contenuti sono diversi, pensiamo a una cosa che ti porta a un illecito strutturale, ma qui c'è una regola che va rispettata per tutti, l'illecito sta già nel telefonare. È già un atto illecito. Illecito tutto. Sportivamente. Vediamo se Paolo da Milano ci conclude. Intanto Don Mazzi è entrato nel tunnel, come ci aveva detto, quindi adesso la linea è caduta. Paolo da Milano, quindi gli interisti sono in minoranza. Paolo, che dici? Lei è interista? Io sono interista. Oh, meno male. Dica lei allora. Ma io forse ho capito male 4 anni fa, ma non mi sembrava che Moggi fosse stato condannato per aver telefonato ai degli arbitrali. Il sistema era una cosa... Mi pareva che ci fosse un problemino di SIM svizzere, assicurative. Che la Juventus di Torino faceva con Bergamo in un'agenzia assicurativa di Livorno, che già mi sembra una cosa strana. Cioè le dice, queste sono telefonatine, dai, telefonatine. Io ho sentito riportare una telefonata in cui, udite, Facchetti chiede, per Inter Juventus mandatemi Collina che è il più bravo, una roba scandalosa. Poi sento Moratti che dice, sono andato a fare i complimenti all'arbitro negli spogliatoi dopo la partita perché è stato bravissimo, e queste sarebbero le telefonate rilevanti. Anche se entro martedì c'è un'udienza, caro Paolo, e pare che entro martedì siano alla ricerca legale di Moggi, c'è 370.000 intercettazioni di quella chiave. Secondo lei verrà fuori, Paolo? Moggi ce l'ha annunciato 4 anni fa che aveva delle grandissime rivelazioni, però se le grandissime rivelazioni sono le telefonate che ho sentito, francamente, poi in Italia, che è un paese del quale penso quello che pensa Bea, può succedere di tutto, però francamente se le telefonate sono queste io non capisco di che cosa stiamo parlando. Va bene. Facciamo fare un po' di titoli di giornali che ci inzuppano il pane. Va bene, grazie Paolo, concludo con lei, ringrazio davvero Massimo Giletti, ringrazio Oliviero Bea del Fatto e Don Antonio Mazzi che ci ha lasciato un po' prima, è entrato nel tunnel, ma eccoci qua, grazie a tutti davvero, votate su Radio24.it, bisogna riaprire Calciopoli, c'è da dire che il 76% dice di sì. Con Sara Spreafico in redazione e Peter Bescapè in regia, ci sentiamo domattina. Grazie.